Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Una tendenza molto evidente in architettura è quella di funzionalizzare in qualche modo le facciate e un po' tutte le superfici esterne degli edifici. Insomma, l'idea è che l'involucro di un edificio possa fare molto di più che limitarsi a proteggerlo dalle intemperie, potendo invece integrare nuove funzioni. Un primo esempio persino banale è la realizzazione di facciate fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica. Le direzioni di sviluppo però sono molte, sono parecchio diversificate, per questo tra stasera e domani vi racconteremo quattro casi molto diversi fra loro di facciate, chiamiamole così, intelligenti. Cominciamo da due idee nate e sviluppate da Polite, dal Polo di Innovazione di Torino. La prima si chiama Energy Skin e ce ne parla l'ingegnere Mario Palazzetti, che è un tecnologo, si è formato nel centro di ricerca Fiat e ha tante invenzioni, diciamo così, alle spalle, tra cui niente meno che l'ABS. Buonasera Palazzetti. Buonasera. Lei ha salvato la pelle a un sacco di gente, sa? Senta, sì. Allora, che cos'è questo Energy Skin? Allora, è un progetto nato dalla ditta Tesan, che è uno spin-off della Savio, ed è sostanzialmente una facciata di alluminio, la quale ha lo scopo di recuperare il calore che esce dalle pareti opache. Quindi muri. Tanti pannelli d'alluminio che vengono assemblati a formare una pelle proprio, a ricoprire interamente l'edificio. Molto sottile, qualcosa di pochi millimetri che rivestono appunto la facciata. Questa pelle è percorsa da un liquido termovettore, diciamo acqua e glicole, e questa pelle funziona come la sorgente, il pozzo di calore di in un sistema a pompa di calore. Cioè in pratica l'edificio disperde calore, questa pelle lo intercetta, esatto. E la pompa di calore ripompa questo calore dentro l'edificio. E esatto. Questo è un po' il concetto, e questo naturalmente aumenta di molto l'efficienza dell'edificio. Senta, ma questo per quanto riguarda l'inverno, e qui immagino anche che sulla facciata su cui batte il sole si possa recuperare tantissimo calore con questo sistema. Invece per il periodo estivo uno pensa al metallo, oh mio Dio, si scalda, diventa rovente. Sì, infatti per evitare questo inconveniente vengono attivate solamente le pareti che non prendono sole. In questo modo il sistema ritorna ad essere efficiente. Ecco, perché voi utilizzate questa stessa superficie di alluminio anche come sistema per fare il condizionamento, no? Certo, in questa volta pompiamo via il calore dall'interno dell'edificio e lo portiamo fuori attraverso la parete. Grazie Mario Palazzetti. Bene, grazie a voi. E dalle facciate d'alluminio passiamo alle facciate, anzi alle pareti verdi, ne abbiamo parlato tante volte, oltre ad essere molto belle offrono vari benefici, assorbimento degli inquinanti, gestione delle piogge, riduzione soprattutto questo del surriscaldamento estivo. Al Polo di Innovazione Polite di Torino hanno sviluppato una parete verde con alcune caratteristiche peculiari, ce ne parla Roberto Giordano, ricercatore in tecnologie per l'architettura. Buonasera Giordano. Buonasera. Allora, quali sono questi aspetti peculiari? Le principali novità riguardano essenzialmente i materiali di cui è costituita la facciata. Il terreno normalmente è un terreno che richiede l'utilizzo di polimeri, di materiali plastici, con funzione di idroretenzione. Noi abbiamo sostituito questi materiali plastici con materiali di origine naturale e con materiali riciclati. Riciclati, perfetto. Ci sono altre caratteristiche peculiari poi? Beh, la modularità, la leggerezza, lo spessore piuttosto limitato, che diciamo sono degli elementi caratteristici di questo sistema parete verde che lo differenziano rispetto a molti altri. È vero che oggi questi sistemi, diciamo, a parete verde permettono di raggiungere anche per quanto riguarda le prestazioni invernali, quindi quando fa freddo, delle prestazioni elevate, più o meno quelle di un cappotto? Assolutamente sì. I sistemi sono sistemi che richiedono ovviamente di essere integrati con altri materiali e altre componenti. Laddove è posta particolare attenzione alla definizione complessiva della stratigrafia, si è in grado di raggiungere delle prestazioni identiche a quelle che si avrebbero con un cappotto realizzato con tecnologie molto più tradizionali. Cioè si aggiunge uno strato di cappotto alla stratigrafia per far crescere le piante? Dipende ovviamente dalla tecnologia di rivestimento vegetale che si sceglie. In alcuni casi il rivestimento va a costituire complessivamente un cappotto, in altri casi invece, come nel nostro, si ottiene una facciata ventilata, dove quindi si ha un duplice effetto, da un lato di una camera d'aria e dall'altro di un elemento isolante che è più tipico e simile a quello di un cappotto. Bene, grazie Giordano, buona serata a tutti, a domani.